Dai, dai, andiamo. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. In mezzo 1-0 Inter, gol di Ljajic, non credo ci sia stata deviazione. Parte Maxi Lopez, palla dentro, Torino 1 Roma 1, ha segnato lui Maxi Lopez dal dischetto, un rigore che farà molto parlare. Destro, prova e palla in rete, 3-0 Bologna, doppietta di Mattia Destro, che lezione per il Napoli di Maurizio Sarri. Oh, io non so cosa sia l'aspetto più interessante di questa domenica. Contesto la colonna sonora. No, è ragazzi, la colonna sonora. È una grande giostra. È una grande giostra. Ma mettiamo qualcosa di più rock. No, c'è poco di rock. No. C'è poco di rock in una domenica che ha visto cadere l'ennesima capolista di questo campionato, che era il Napoli. Io non so. Io non so, carissimo Carlo Genta, cosa ci sia di più sconcertante in questa domenica. Se la caduta del Napoli, se il fatto che questo è un fine settimana in cui si parla molto di arbitri, giustamente, poi sentiremo, ne discuteremo. Se che alla fine sono in corsa tutti, anche il Milan, magari, se questa sera vince contro il Carpi. Non dire cazzate. 800 24 00 24. Dopo che mi hai fatto sentire quella colonna sonora, non dire cazzate. 800 24 00 24. Prenotatevi adesso per intervenire. Insomma, i temi sono tanti, sul tavolo. C'è anche la Roma, che ieri sembrava uscita distrutta dal pareggio di Torino, e invece oggi scopre di aver guadagnato un punto sul Napoli e di essere in fondo lì nel mazzo. Saluto Luca Valdiserri, collega del Corriere della Sera. Ciao Luca. Ciao, ciao Luca. Ciao, ciao. Voi siete degli inguaribili ottimisti. No, io più no, che ottimista, io sono un pessimista, leggo. Io sono un pessimista della Madonna. Cioè, secondo me la Roma ieri non meritava di vincere, giustamente è stata acciuffata alla fine dal Torino. Cioè, c'erano. Stavo pensando che ne hai persi due su Inter e Fiorentina. Poi sì, il Napoli ha fatto anche peggio, però la partita di ieri della Roma, per il calcio che ha prodotto, non è che abbia dato dei segnali particolarmente buoni, no? Sì, no. Però Luca, se questo è un campionato in cui tutti quelli che arrivano in testa poi in qualche modo si bruciano, e la Juventus è, credo, ufficialmente pienamente in corsa, al di là delle opinioni che può avere ciascuno, legittime, sugli 84, gli 80, gli 85, i 90 punti che serviranno. Beh, io oggi leggo la classifica e dico che il Napoli ha rimesso in corsa tutti. È vero che davanti ci sono Inter e Fiorentina, però evidentemente non c'è un padrone, e questo apre la strada a qualsiasi considerazione, ripeto, in un weekend. E poi su questo chiediamo anche agli amici da casa, io ripeto i numeri, vi prenotate 800 24 00 24, oppure via sms o whatsapp 349 238 6666, vi aspettiamo in un fine settimana in cui, anche se Garcia e Sarri hanno detto che non è colpa degli arbitri, pesano anche gli episodi arbitrali, c'è poco da dire, Luca. Ma sì, io penso che lì sia un discorso proprio filosofico. O ti fidi dell'arbitro, e allora c'è un arbitro che decide e non c'è bisogno di due assistenti di porta, il guardaline che ormai sono collegati con le radioline, il quarto uomo, il quinto uomo, il sesto uomo. Cioè, ti fidi dell'arbitro, e l'arbitro è, io me lo immagino, un Lobello che andava a chiedere al giudice di porta se aveva visto meglio di lui. Nemmeno se lo vedono, Lobello decideva per conto suo, e così Agnolin, Casarin, tutti i grandi arbitri, Collina. Quelle di oggi hanno un po' meno personalità, anche D'Amato, anche ieri, perché si è fatto imporre da Fabbri addizionale di porta al rigore di Torino. Ma perché non ha logica, no? La logica è, siamo tutti uguali, il più vicino decide. Questo è sbagliato, perché se c'è un arbitro è l'arbitro che deve avere l'ultima parola, altrimenti metti la tecnologia e ti fidi della tecnologia. Così si è fatto un ibrido che non, non serve a niente. Se però non Luca, al di là degli errori che ci sono, al di là delle incongruenze, poi alla fine gli arbitri sono funzionali all'alibi, no? Quindi a chi conviene tirare in ballo l'arbitro, tira in ballo l'arbitro. Però per quello, se tu semplifichi la cosa, l'alibi è più smascherato, no? Adesso invece va bene a tutti, nessuno si assume più la responsabilità, nemmeno l'arbitro stesso, no? No, anche perché Sarri non è che si è messo a protestare per il cartellino rosso a Nagatomo lunedì sera, si è messo a protestare oggi, quindi è la scoperta dell'acqua calda, no? Non c'è dubbio, però ti ripeto, io farei una roba molto semplice, o tornerei all'arbitro che decide tutto lui, o introdurrei la tecnologia. Invece così siamo in una zona grigia, sì, una terra di nessuno. Per me è la prima che hai detto. Siamo poi in un ibrido. Per me è la prima che hai detto. Quello, l'importante è fare una scelta, no? Adesso non rimanere... Ma la scelta è stata fatta però, Luca. C'è la tecnologia sul gol non gol che libera da questo compito gli addizionali di porta che sono stati confermati. Io mi aspetto che lì a un metro e mezzo da dove accadono tanti episodi, a questo punto non sbaglino, e invece sto notando che sbagliano, oppure ogni tanto omettono di intervenire. Mi viene in mente settimana scorsa la Fiorentina con Ilic, ci ha battuto a un metro dall'addizionale di porta con nessun intervento. Per gli amici da casa, poi magari cercheremo anche di sentirlo, Sarri oggi che dice: non perdiamo per colpa degli errori arbitrali, però non venitemi più a dire che gli arbitri italiani siano i migliori. Allora, cerca un alibi o fa un discorso così generale? Io non lo so, secondo me cerca un alibi, perché poi tu puoi anche per mezz'ora dire che non hai perso per colpa dell'arbitro, ma se butti lì questa cosa qui Chiamato un sacco di rigori, no? Luca è uno straordinario allenatore, forse il miglior allenatore di quest'anno, no? Anche se io nel mio personalissimo cartellino, per me il primo quest'anno è Roberto Mancini, per tanti motivi. Sono soprattutto d'accordo. Perché io ci metto Donadoni, finalmente... poi ne parleremo. No, sì, presto. Poi, sono d'accordo con Valdiser. Sta facendo un grande lavoro, però diciamo Mancini è l'allenatore che piace a me, perché va dal presidente e gli dice: voglio questo, questo e questo, la squadra la costruisci come voglio io e poi le responsabilità sono mie. Comunque, al di là di questo, Sarri ha tante qualità. Di sicuro è un po' un piagnone su quello che è... No? Adesso oggi leggo che lo scudetto del Napoli sarebbe un'invenzione della stampa. Con questo Higuaín lo scudetto non è che lo devi vincere, ma lo puoi vincere. No, non è. Nessuno dice che il Napoli è la squadra. Non sei obbligato, ma non puoi far finta di non averlo. Dai, non mi prendere in giro. Adesso pensiamo solo alla partita di Champions, di Europa League, non mi interessa niente della Roma. L'Europa League si è già qualificato. Chiaro che devi pensare alla partita con la Roma. Quando uno poi è bravo, ma vuol fare il fenomeno, a me... Hai ragione, Luca. Siamo sotto traffico. Prima di salutare Luca Valdiserri, mi dici cosa fa Pallotta, che sta arrivando, forse già arrivato in queste ore a Roma dopo sei mesi. Va in Umbria in vacanza. Come mette mano dentro il caos della Roma? Vabbè, intanto deve fare una serie di incontri istituzionali molto importanti, a partire da quello dello stadio e poi con quello del prefetto di Roma, per cercare di risolvere questo problema. Sperando che gli risponderanno. No, ma Garcia lo vede questa volta, sì. Garcia lo vede, ma Garcia deve vedere la formazione giusta per qualificarsi e poi magari per cercare di non perdere a Napoli. A quel punto, si arriva a Natale, siamo tutti più felici. Certo, se Garcia non passa il turno o prende a Napoli una scoppola tipo 5-1, 6-1, allora a quel punto credo che sia difficile non intervenire. Però come succede tante volte, è vero che i risultati contano fino a un certo punto, ma poi nella sintesi sono quelli che contano più di tutti. Se Garcia passa indenne nelle prossime due partite, è una bella assicurazione sulla vita, almeno fino a fine stagione. Sì, almeno fino a giugno, poi c'è che ha un contratto pesante, c'è tante cose. Nemmeno poi lui voglia restare. Dopo giugno è tutta un'altra storia da scrivere. Grazie Luca Valdiserri, grazie. Ciao. Luca Valdiserri, intanto nuvoloni neri sulla testa di Ballardini, che ha perso male a Bergamo, poi cercheremo di far luce. 800 24 00 24, ci sono già Giuseppe da Padova, Gianluca da Napoli, ci fermiamo perché c'è il traffico. Tutte puttanate! Tutti convocati. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta convocati. Intanto Ballardini, un punto in tre partite più l'eliminazione in Coppa Italia contro l'Alessandria. In silenzio stampa ha parlato Gerolin, direttore sportivo del Palermo, ha detto: in questo momento bisogna stare sereni, domenica abbiamo uno scontro diretto col Frosinone, sarà molto importante. Poi gli hanno chiesto direttamente se ritorna Iacchini, ha detto fra un'oretta ne parleremo. Si sa che Zamparini vuole solo il bene della squadra, sta valutando. Iacchini, quindi, allenatore con l'elastico. Senti, ma come si mette la chiocciola sulla tastiera? Che non... Control chiocciola. 800 24 0024. Giuseppe da Padova. Giuseppe. Ciao Giuseppe. Ciao ragazzi. Ma ciao. Giocatori del Palermo appecoronati sotto la curva? Non lo so. A 90 gradi è successo, sotto la curva, è successo chiedere, qualcosa di simile. A chiedere perdono? Prego Giuseppe. Ciao. Allora, si parla di Napoli, si parla di Inter, si parla di Fiorentina, si parla di Roma e tutti i problemi vari. E come si mette la chiocciola, Giuseppe? Contro... Due mesi fa con Carlo, per telefono, in un'altra mia convocazione, discutavamo di personalità della Juve. E Carlo mi diceva: la Juve dopo il Siviglia l'abbiamo vista, sta arrivando, ha personalità e arriverà. A me interessava solo dire che i famosi fari che parlavate voi li hanno visti, li vedono bene e sono ben evidenti. Mm-hmm. E credo che qualcosa di importante in queste tre giornate sia stato indicato. Poi gli errori arbitrali ci stanno da una parte e ci stanno dall'altra. Ma oggi credo che la Juve è la squadra che faccia più paura. Ma è una sensazione che ho io per come li vedo giocare in campo, per la determinazione, il cinismo che hanno. Magari il gioco non è eccezionale, però hanno una cattiveria nei contenuti, nei modi, che mi rispecchia la Juve che vince. Sì, poi davanti si sono anche, hanno anche rallentato, li stanno in parte aspettando. Aspettate che magari sentiamo Reia, 24 punti, l'Atalanta in questo momento è sesta in classifica. Giustamente un amico ha scritto al 349-238-6666, continuate a parlare di tutti tranne che della squadra rivelazione che è l'Atalanta. Sentiamo Reia ai microfoni di Sky. Abbiamo ancora delle partite importanti da giocare, cioè l'alta classifica non ci farà girare certamente la testa, perché io sono lì con dei secchi d'acqua che butto con l'acqua sul fuoco, pertanto stiamo tranquilli, lavoriamo bene dall'inizio di questo campionato, siamo contenti dei risultati che stiamo ottenendo. Oggi, rispetto ad altre volte, non abbiamo fatto, diciamo, bene sul piano tecnico, non abbiamo giocato una grandissima partita, però siamo stati concreti, anche perché il Palermo, con i quattro metà campo, ti viene a chiudere un po' dappertutto e cerca di pressare un po' da tutte le parti e diventa un po' difficile venire fuori con palla al piede. Questo lei ai microfoni di Sky. Ripetiamo, Atalanta che è squadra di rivelazione, possiamo dirlo, di questa prima metà della stagione. Oggi però obiettivamente ha vinto contro un Palermo che è in disarmo, e abbiamo sentito la notizia: Zamparini sta valutando se richiamare Iacchini. Avevi dei dubbi? La Juve fa paura, la Juve. No, avevi dei dubbi. Ma insomma, magari che durasse qualche settimana in più si poteva anche pensare. Sulla Juve abbiamo aperto anche il sondaggio Twitter, tutti convocati, anche perché domenica ci sono Napoli-Roma e Juve-Fiorentina, e quindi c'è sospetto magari che possa anche risolversi in un duello tra Inter e Juve per lo scudetto, che al momento è l'opzione che preferiscono gli amici da casa. Ma loro fanno paura perché arrivano da dietro, perché nessuno li considerava più, perché hanno il carisma e l'abitudine alla vittoria, quindi certamente la Juventus è rientrata e certamente la Juventus fa paura a tutte quelle davanti. Io sono d'accordo con Valdiseri quando dice che Mancini è il miglior allenatore del campionato in questo momento, perché sta spremendo tutto il meglio possibile dalla sua squadra, e perché è primo in classifica, e perché tutto sommato l'Inter probabilmente abbiamo ragionato un sacco, no, su Napoli-Inter, su quegli ultimi 20 minuti, abbiamo pensato va bene, però possono avere infilato dei dubbi nel cervello del Napoli e possono avere dato delle certezze all'Inter. Oggi abbiamo avuto qualche parziale risposta. Sì, probabilmente è successo. Allora intanto saluto Enzo Bucchioni, ciao Enzo. Ciao, buon pomeriggio, buon ritrovati a tutti. Ciao, aspetta, ciao, che grandi. C'è Gianluca da Napoli, così lo sentiamo insieme. Gianluca, buonasera a tutti. Eccoci. Mi capito nella puntata giusta, ma che farà poi? No, perché volevo parlare che si fanno trasmissioni per un centimetro di fuorigioco. Sì. Il cacciatore aveva un piede di fuorigioco. Ma oggi era un po' più di un centimetro, eh? Sì, ma diciamo, la maiola non fa parte del calcio. La maiola è un'invenzione per arringare i semplici, se mi permettete. E quindi è un dispiacere vedere queste cose. Quest'anno c'è un campionato bello dove ci sono diverse squadre che possono vincere, però ci va sempre sulla moviola, sugli arbitri. Sì, però Gianluca, porta pazienza, io immagino tu sia tifoso del Napoli. No, no, assolutamente. No, non sei tifoso del Napoli, va bene. No, però insomma, è Sarri che spesso ci porta sui temi della moviola, perché ha parlato delle squadre a strisce, dei rigori, della permanenza in area di rigore. Oggi la butta lì, smettetela di dire che gli arbitri italiani sono i migliori. Adesso, per carità, noi siamo anche innamorati, Enzo, della sì. polemica, però... come dicevano, è il pepe, il sale, no, ma insomma, oggi veramente credo che sia un fuorigioco di pochi centimetri, è difficilissimo. Mettiamoci anche qualche, non dalla parte dei giornalisti e della polemica che ci piace, come dici più, tu e moltissimo, mettiamoci dalla parte del povero Guardalini in questo caso. Quindi io assolgo in pieno. Guardalini che era di Liberatore, che più attenti hanno segnalato essere il guardalinee di Juventus-Napoli 1-3 dell'anno scorso, quello del fuorigioco di Caceres sul gol del 2-1 che sì. fece parlare per settimane a Napoli e Benitez, no? Ci può stare, prego. Sì, però, così sì, ne abbiamo però, messa lì un'altra ai nostri amici. L'arbitro era Mazzoleni, quello di Pechino, prego. No, ma poi parliamo anche del rigore dato al Chievo, che secondo me un fallo iniziato allora, 6 metri fuori dall'area. Parliamo allora di tutto io vado questo, avanti, no? Complotto. C'è qualcuno che chiama in generale complotto. È Putin, è l'ISIS, sono i poteri forti, sono le banche. Io credo invece più banalmente che il Napoli abbia pagato l'essere in testa alla classifica. Improvvisamente ho visto dei giocatori che hanno perso il sorriso, giocavano con più spensieratezza nelle altre gare, oggi erano preoccupati, c'è la preoccupazione di rimanere lì appesato nella testa, soprattutto all'inizio, nel primo tempo. È una questione psicologica delicata e dovrà essere bravo Sarri a risolverla. Probabilmente questa sconfitta, come ha detto lui, consentirà di ripartire. L'aveva perso solo la prima col Sassuolo e ci sta uno stop. Sì, ma secondo te quanto pesa quella finale di partita contro l'Inter? È possibile che pesi così tanto in una partita che alla fine hai vinto e che ti ha portato in testa alla classifica? È possibile che ti abbia oggi Sarri l'ha detto, insinuato dei dubbi nel cervello? Ma io non credo questo, io ribadisco il discorso, erano i tempi di Maradona che il Napoli non era primo in classifica, quindi devi dimostrare di stare lassù e sei condizionato perché qualcuno ti chiede sempre qualcosa di più e di meglio, e quindi arrivarci è stata una rincorsa, quindi ti ha gasato, ti ha messo adrenalina addosso. Quando ci sei arrivato è più difficile gestire, e non essendo una squadra abituata a stare là, questa è la prima partita che hai giocato e ti ha complicato le cose. Io credo che il Napoli ripartirà da domenica prossima con la Roma, perché anche oggi ci sono visti degli squarci di grandissimo gioco, palla a terra, velocità, con meno lucidità, con più preoccupazione. Dicevo, la cosa che mi ha preoccupato se fossi Sarri è questa infelicità della squadra, cioè preoccupazione. Le altre volte anche Higuain, avete visto, oggi è ritornato a protestare, a essere anche coi compagni quando sbagliavano. Sì, poi in 5 minuti ha riaperto la partita, perché tra l'altro secondo gol meraviglioso, le due finte che fa prima di arrivare al tiro. Però è vero, per 85 minuti era stato l'Higuain visto l'anno scorso. Però Enzo, esatto. se dobbiamo seguire il filo del tuo ragionamento, poi ti chiedo una cosa sulla Fiorentina, e cioè se il Napoli alla prima prova da leader della classifica è caduto così, evidentemente il Napoli ha forse più limiti di quelli che pensavamo in proiezione corsa scudetto. Poi sentiremo anche Sarri che ha detto che è tutta colpa dei giornalisti, che sono loro che si sono inventati l'obiettivo scudetto. Mamma mia, non l'ho mai sentita. Ma infatti Sarri aveva detto che sono vicino, quando mancavano 6 punti alla salvezza, sì. No? Come diceva il buon Bagnoli ai tempi del Verona, in questa settimana ho sentito anche questo. Ma sai, il problema è essere abituati a stare lì, come dicevo prima, anche Sarri non è abituato, sentivo Valdisseri, sono perfettamente d'accordo sul discorso di Mancini, perché Mancini è abituato a vincere, ha vinto da giocatore, ha vinto dappertutto da allenatore, quindi ha un altro modo di gestire, è abituato, e l'essere lassù non è abituato, l'allenatore non sono abituati molti di questi giocatori del Napoli, ora ci sono arrivati, sono caduti. Io credo che da qui in avanti sarà molto più facile per il Napoli gestire un eventuale ritorno al primo posto. Certamente la psicologia per me incide moltissimo anche nello sport, magari sbaglierò, però l'Inter ha anche un altro vantaggio, oltre ad avere una gestione già più sicura, più esperta, anche il fatto di non giocare le coppe, questo inciderà nel momento decisivo della stagione, che mi insegnate sempre marzo, che le cose si decidono in quel punto lì. Il Napoli sarà ancora impegnato in Europa League, speriamo per loro, sarà ancora impegnato sbagliata la Fiorentina, mentre l'Inter avrà la possibilità di prepararsi tranquillamente la domenica a domenica, e questo secondo me non è poco in questo equilibrio sostanziale che c'è quest'anno in testa alla classifica. In questo equilibrio la Fiorentina che ruolo ha? A questo momento seconda in classifica, io ripeto, domenica ore 18 Napoli-Roma, ore 20:45 Juventus-Fiorentina. Secondo me, se la Fiorentina può dire qualcosa per le prime due, per la prima posizione, non lo so, a questo punto è tutto aperto, domenica è il momento in cui deve dare il segnale, o no, Enzo? Assolutamente, assolutamente, perché noi giustamente stiamo esaltando la Juventus, questa rincorsa, queste cinque partite vinte a fila, non è facilissimo, la trappola italiana vince nei cinque, però io uno strapotere della Juventus, un bel gioco, una squadra che va nella metà campo avversaria e domina, non l'ho ancora vista, mentre la Fiorentina fa questo, ha un gioco superiore dal punto di vista tecnico. Se dovessi mettere questo sulla bilancia, direi la Fiorentina è favorito, però sappiamo che queste partite favorito non esiste, e la Fiorentina se la giocherà rispetto agli anni scorsi, anche abituata, come dicevo prima, l'abitudine conta a fare lassù, l'ha già battuta l'anno scorso in casa la Juventus, e può essere una sfida sicuramente decisiva, perché la Fiorentina per questo è un test, se vuoi diventare grande ci sei, lo devi dimostrare in questa partita, sì. È inevitabile. Come lo dovrà test dimostrare anche per la Juve, Enzo, che ha una solidità mentale pazzesca, ha Dybala, sì. Ha tante cose che stanno andando a posto, però il livello si alza anche rispetto a questa Lazio. Enzo, ti devo salutare che siamo col meteo. Ciao Enzo. Ciao, ciao, grazie. Enzo Bucchioni, ciao Enzo. Va bene, però bisogna dirle una cosa. Sì. Ragazzi, la Juventus sta salendo prepotentemente. Sì, l'abbiamo detto. Giustamente. Gli arbitri italiani sono i migliori in assoluto. No, abbiamo sono detto il contrario. Sarri ha detto il contrario, Sarri. Appunto, a dopo torniamo. 800-24-0024. Vergognatevi. Siamo andati sotto per un piccolo errore dell'arbitro, ma per tanti errori da parte nostra. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. A noi ad essere primi, secondi, terzi ci deve interessare relativamente, perché gli obiettivi del Napoli sono stati creati dalla stampa e non dalla società, e quindi questo ci dovrebbe far stare più sereni. Sarri, che cosa sposta questa sconfitta 105 giorni dopo l'ultima volta? Ma ditemelo voi, avete creato gli obiettivi voi, ora ditemi quello che dobbiamo fare. Ma comunque un Napoli che ha ancora tutte le carte da gola per puntare ai primi tre posti. A noi non ci cambia assolutamente niente, anzi, può darsi perdere una partita dopo un periodo così, così lungo ci faccia ritrovare invece sensazioni che possono essere molto utili per proseguire il campionato. Allora, Sarri è bravissimo in campo, il lavoro che sta facendo col Napoli è meraviglioso, però dal punto di vista dialettico è dall'inizio dell'anno che lo diciamo, insomma, anche questa cosa che la stampa abbia deciso che il Napoli può vincere lo scudetto mi sembra sia quantomeno discutibile. 800-24-0024, così come l'altra battuta, quella sul fuorigioco di oggi, si poteva sbagliare, questione di centimetri, però basta con il luogo comune che gli arbitri italiani siano i migliori al mondo. Saluto Bruno Giordano, credo dalla Bulgaria, giusto? Ciao, Bruno? No, sono a Roma oggi. Ecco. Buona serata. Magica. Voto a Sarri. Ti ricordi, Giovanni? Sì, assolutamente, ma se ne è parlato anche in questi Giordano giorni. Voto a Sarri, ma non tanto da allenatore di campo, lì basta vedere come gioca il Napoli, ma sì, da allenatore di una squadra che deve stare in testa, deve giocare per lo scudetto, usciamo da no, ma o sembra, no? Sembra chissà che cosa se un allenatore dice lottiamo per lo scudetto. Detto. Sembra che tutti si nascondano, insomma. È chiaro che Napoli, come al pari dell'Inter, della Juventus, della Roma, di questa grande sorpresa che è la Fiorentina, hanno fatto la squadra, non dico per vincere, ma almeno per lottare, ecco, dire noi vogliamo lottare non è peccato, no, non è una bestemmia come dice Sarri. No, sicuramente no, insomma. Perché Sarri fa così? Ma anche Mancini fa così. Anche Mancini ha detto ci sono cinque squadre più forti di noi. Sì, però Mancini da qualche giorno, da un paio di settimane, ha sdoganato la parola scudetto. Oggi Sarri ha perso, insomma, l'abbiamo sentito. Perché fa così, Bruno? Non so, forse per non creare tante euforia in città. Poi Ivan lo sa, no, vive anche la realtà di Napoli. Insomma, però insomma anche il tifoso si vuole sentire importante, hai una squadra importante, hai una squadra che fino a oggi a mezzogiorno e mezzo era prima in classifica, non puoi dire non pensiamo allo scudetto, insomma, anche perché un terzo di campionato già è andato via e il Napoli dimostra di potersi giocare il campionato fino alla fine, insomma. Poi se arrivi secondo o terzo non c'è niente di strano, però dire giochiamo per poter lottare, no? per poter lottare per le prime due, tre piazze, insomma, ecco, questo non sarebbe niente. Ma è così pericoloso il clima di Napoli, se dovesse entusiasmarsi la piazza, crederci davvero nell'opportunità dello scudetto? E secondo me ci crede, perché oggi erano in 10.000 a Bologna. Ma ci credono, sì, è chiaro che città Napoli e Roma partono svantaggiate sotto questo aspetto, sotto la città come Torino e Milano, che sono più abituate. Queste città, Napoli e Roma, hanno poco equilibrio, si passa da un eccesso all'altro. La Fiorentina è un'eccezione, perché la Fiorentina qualsiasi cosa fa da qui in poi è sempre qualcosa di straordinario affatto. Non puntano a poter lottare una classifica così importante, ci sono e non si nascondono, anche perché stanno giocando un gran calcio. Sotto questo aspetto partono svantaggiate, però poi c'è l'entusiasmo di tifoserie che si vengono a seguito con 10-12 mila persone, che è tanta roba di questi tempi, andare fuori casa con tanti tifosi al seguito. Sì, Bruno, lo chiedo anche a te, è possibile che gli ultimi 20 minuti di Napoli-Inter abbiano messo dei dubbi addosso a Napoli più di quanto non fosse lecito? In fondo il Napoli ha vinto la partita, ha conquistato il primato lunedì sera. Sì. Però per una settimana abbiamo parlato di un Inter che ha affrontato e superato la prova di maturità, non tanto del Napoli, sì, che ha vinto la gara. È possibile che abbia messo dei dubbi addosso a Napoli? No, non credo. Credo che ci sia un momento di appannamento in alcuni giocatori, Giorginio in primis, Caglione, che si sacrifica molto, però non è più il Caglione del primo anno dove si risolveva le partite, insomma, in qualche elemento. Invece altri giocatori in grande spolvero come Higuain e Insigne, sono dei momenti, però io credo che abbiano anche le alternative per superare questo momento. Credo che non c'è niente di anomalo, ci può stare una sconfitta dopo tante belle partite, certo, giocate alla grande, un po' di rilassamento, la vittoria grandissima, grande energia sotto dispendio di energie mentali e fisiche contro l'Inter, e la puoi pagare poi 5-6 giorni dopo. Sì, c'è chi scrive al 349-238-6666, ripetiamo SMS e anche WhatsApp, che la difesa del Napoli non è all'altezza di una squadra da scudetto. Ma come no? Non lo so. Ma come no? Fino a questa mattina, cioè, la celebravamo come la migliore. I numeri dicono che in questo momento è la terza del campionato, dopo l'Inter e Juventus, alla pari della Fiorentina. I numeri, perché oggi ha preso 3 gol. Però non lo so, si può anche discuterne, Bruno. No, io non credo sia quello il problema. Ma soprattutto nel campionato italiano, che la difesa del Napoli sia all'altezza. Io credo che dopo la difesa, e parlo nei centrali, non sono sugli esterni, Koulibaly e Albiol, sì, l'Inter che ha una coppia straordinaria, Murillo e Miranda, e i tre della Juventus che sono superiori, credo che a livello di forza nell'individuale, appunto, il Napoli viene subito dopo. Se dovesse recuperare al 100% Gattano, allora Gattano e Manola sarebbe un'altrettanta coppia importante, però io credo che la difesa del Napoli ha dimostrato fino ad oggi che ci può stare, insomma, tranquillamente. Poi è vero che finché hai un Higuain così nel tuo Napoli, visto che di te, ma ne ha parlato anche Sarri, anche con quella battuta anche ieri sul pallone d'oro, che Higuain è obbligato a vincere nel corso della sua carriera. Higuain nel tuo Napoli, in quello di Maradona e Careca, dove stava, se stava? No, ci stava. Grande, sì, tranquillamente. Perché Ottavio Bianchi settimana scorsa ci ha detto che era una bestemmia anche solo pensarci di paragonare Higuain ai grandi di quei Napoli lì. No, ci può stare. Higuain ha dimostrato di essere un grande, se dimentichiamo anche Andrea Carnevale. Insomma, ci si alternava, sarebbe stato un bel giocare anche con lui. Certo, io mi accontento di aver giocato con Diego, Careca e Carnevale, certo. Mi accontento di poco. E di aver vinto qualcosa, ti accontenti di poco, quasi niente. Senti, ma ha un senso mandare via Pioli per quanto riguarda l'altra tua squadra del cuore, sempre con gli stessi colori? No, assolutamente. Poi sentendo i nomi, cioè, fino a che si fa il nome di Guidolin, Lippi, tanto di cappello, ma leggendo dei nomi che non, non hanno mai, non si sono mai seduti neanche su una panchina di Serie C o di Serie B. Stiamo parlando di Brocchi, che oggi ha detto che le voci lui non le ascolta, non gli interessano. Anche lo stesso Bollini, insomma, mi sembra un poco rispetto verso l'allenatore, ma anche poco rispetto verso la tifoseria di Bianco Celeste. Ma secondo te lo Tito può andare avanti con un allenatore in cui palesemente non crede più? Perché c'è anche l'altra faccia della medaglia. Il problema è che quando le cose vanno bene, al pari di Bektoj, ce l'ha scoperti tutti lui, e lui sceglie giocatori e allenatori. Quando le cose vanno male, purtroppo li butta a mare. E così non si fa. Un allenatore deve essere protetto nei momenti di difficoltà, e Pioli sta in un momento di difficoltà al pari della società e dei giocatori, e tutti quanti devono uscire fuori, no? Che una persona non può essere determinante in un gioco così complesso e globale, anche in negativo, in positivo. Non credo che un allenatore possa essere determinante in tutto, e ci sono dei problemi, sono da parte di altre persone. Altrimenti dovremmo dire che il terzo posto dell'anno scorso è stato un miracolo tutto, firmato tutto da Pioli. Lazio è un'ottima squadra, che aveva un momento di difficoltà. Poi, allora mettiamola così, certo. No, ma poi insomma ha perso per strada qualche giocatore importante. Io credo che l'unico punto che gli muovo io a Pioli è di non essersi fatto fare una squadra all'altezza e proteggere il terzo posto o migliorare il terzo posto della passata stagione, perché con under di buone speranze non puoi mantenere certi livelli. Lui si doveva giocare una Supercoppa italiana con la Juventus, si doveva giocare una qualificazione contro il Leverkusen, e con under ragazzotti e buone speranze non migliori questa situazione. Ecco, solo questo. Se poi Felipe Anderson gioca a questi livelli, cioè sembrava un fenomeno, adesso è tornato nel limbo. Sì, è tornato un giocatore normale. Anche un po' di pepe sulla coda, perché se no tutti quanti si sentono sicuri del posto e ti allini e non ti allini. Invece se tu hai dietro qualcuno che ti pressa, sei costretto a correre di più. Quello che è mancato appunto alla Lazio con questa campagna qui. Grazie Bruno. Ciao Bruno, grazie. A voi, buona serata. Ciao, a tutti. Presto. Grazie a Bruno Giordano. 800 24 00 24. Adesso apriamo le linee per gli ascoltatori da casa. Chiamate, prenotatevi, poi restiamo qui fino alle 19. Dopo arriva anche più Luigi Pardo. Tra l'altro ci sarà Cassano titolare per la prima volta con Montella in Sampdoria Sassuolo, che inizia alle 18. Vi racconteremo anche questa partita. Adesso il traffico. Higuain, se nel suo futuro non vince il pallone d'oro, è una testa di cazzo. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. E dopo c'è questa decisione, ma quando non è sicuro al 100%, meglio non fischiare. Se perdi al 90, se prendi gol al 93esimo su calcio di rigore inesistente, penso che ovviamente fa male. Questa è la Roma ieri, Garcia e Nainggolan. In questo fine settimana ripeto che comunque deve far discutere anche degli arbitri, perché sono due errori. Ma secondo te secondo te la Roma ieri meritava di vincere? No, però quando sei al 94esimo e l'hai vinta, andiamoci piano, ecco. un cordiale saluto agli amici di tutti i convocati weekend a Radio 24. Sì, cosa ne penserai del rigore, quello perché di ieri? Io penso lo tenga calmo, perché si può andare avanti con questo. Io penso sia auspicabile tendere la mano sportivamente all'arbitro D'Amato, che pur sempre un essere umano, non si vede, però in teoria dovrebbe essere. Ecco, se posso dare un consiglio spassionato a D'Amato, veda di rifornirsi di oppiaci verso un pusher più attendibile, e per il resto posso dirgli con la consueta pacatezza e sobrietà, non con quella che lo dico un po' più pagato, assolutamente pagato, ma vedi, non si può. poi sono io della mignotta, no, anche perché, no, ma anche perché tra l'altro non è che ha sbagliato per colpa sua, c'era Fabri dietro la porta che gli ha detto, la muoveva fatta bene, insomma. Tengo a sottolineare che Manolas tocca la palla tutta la vita, ma non facciamo però Fabri non va assolutamente colpevolizzato, per carità, è pur sempre un essere umano, non si vede, però insomma posso dire pure a lui con la massima pagatezza e sobrietà, con senso d'amicizia, genuinità, verace, sportività che contraddistingue la mia persona, ci pensi bene e assolutamente poi... no, non c'è solo sono tranquillissimo alla faccia di gente che qua sta provocando in continuazione, ecco, io assolutamente tranquillo, pagato, dico ma vedi, no, basta, io 8-0-0-24 Stefano da Bologna, era il nostro Andrew, bravi voi che l'avete votato, Stefano, pronto, Stefano, pronto, prego, ci sono votato, ha votato pacato, Gasparri. Stefano, prego. Ok, ciao. Buonasera. Sì. Grazie. No, io volevo chiedere questo. Cioè, abbiamo parlato del Napoli, bravissimi, una squadra che sicuramente lotterà per lo scudetto, perché si è visto oggi. Parliamo del Bologna. Parliamo del Bologna, che ha fatto 80 minuti al massimo delle sue possibilità. Ma il Bologna aveva già fatto una partita straordinaria con la Roma. Con la Roma che si meritava di vincere. Cioè, col Napoli Sarri fuori gioco, dopo 10 minuti ne ha preso un altro, quindi cioè, 2-0, 3-0, se la partita dura 20 minuti in più probabilmente perdiamo anche, perché andiamo sulle gambe e però dura 94 e quindi io sono 94, felicissimo, cioè, per Mattia Destro che lì a Bologna avete messo in croce, io sono incuriosito, è un grandissimo giocatore, però Stefano, com'è possibile che un attaccante che per 10 partite non fa neanche un gol poi cambia l'allenatore e ne oggi fa 4 in 4 una partita in difesa nella bandierina dell'angolo ma quel ditino che aveva davanti alla bocca oggi a chi era dedicato, perché ce lo chiediamo dalle ore 13 di oggi in redazione, diciamo che il ditino non era dedicato credo alla curva sicuramente, perché io ma a qualcuno sì, abbonato, però a qualcuno ce l'aveva con la tribuna, non lo so, forse l'aveva con la tribuna, onestamente non lo so, non so rispondere a chi era dedicato, ce l'aveva con Deglio Rossi e sta forse con Deglio Rossi perché sicuramente un giocatore che non corre 10 metri cambia allenatore, dopo si mette a correre per tutto il campo, questo è incuriosisce, se non gli dai una boccia giocabile che è una, cioè, esatto, anche Mattia Destro non è che può fare più di tanto. Anche oggi ha fatto un gol bello dal mio punto di vista, perché comunque ha dovuto spallare tutto e poi dopo è andato a tirare e l'ha messa dentro. No, ma che Destro sia forte non è che lo scopriamo oggi pomeriggio. Esatto, grazie Stefano. Ciao Stefano. Alessandro dalla provincia di Milano. Alessandro, buon pomeriggio a te, prego. Allora, io volevo fare da juventini complimenti ad Allegri. Oh, finalmente! Sì. Noi ci sentiamo magari ogni 2 o 3 mesi. Sì. Ma visto il fango che gli è stato un pochettino gettato nei primi mesi con una squadra completamente nuova e cominciando a intravedere dei barlumi di luce dalle partite, soprattutto di Champions, io credo che il segreto comunque sia aver ritrovato innanzitutto una condizione di alcuni giocatori che è ottimale. E parlo soprattutto di Bonucci, perché Barzagli il suo l'ha sempre fatto, di Chiellini, che invece precedentemente aveva avuto svariate tanti errori, tanti gol regalati. Aver ritrovato Marchisio a centrocampo, perché mi pare che col Sassuolo lui non c'era, ed è l'ultima partita che la Juve abbia perso senza Marchisio. E soprattutto aver trovato davanti due grandi giocatori, uno in prospettiva e un altro che diranno che è un pingone, un palo della luce, ma fa un lavoro in fase difensiva che è Alessandro, però lo dicevano i tifosi della Juve, non è che lo dicessero, chissà chi, lo dicevano i tifosi della Juve, così come Allegri era messo in discussione dai tifosi della Juventus. Comunque, cioè, vogliamo tenere fuori Morata, non scherziamo, e però insomma, qualcuno deve stare fuori, soprattutto se il modulo è quello, però abbiamo ancora un'ora per parlarne. 800 24 00 24, sta cominciando Sampdoria Sassuolo e sta cominciando la prima da titolare con Montella di Antonio Cassano, avremo qui anche più Luigi Pardo per parlarne. 800 24 00 24, prenotatevi perché la seconda ora spazio agli ascoltatori. Ragazzi, ci sono tra poco, tutti convocati weekend 800 24 00 24. Se becchiamo tra poco, Tutti convocati. La Fed ha sorpreso i mercati con il rimando della exit strategy monetaria. Sembra intenzionato a ricoprire il gap ribassista apertosi a inizio ottava. I dati deludenti anche su questo fronte dovrebbero accelerare il processo di attuazione del quantitative easing della BCE. Quando si parla di economia, hai il mal di testa? Prendi Focus Economia. Ogni giorno l'appuntamento con l'attualità economica spiegata in modo chiaro, diretto, senza giri di parole e senza sconti per nessuno. Da assumersi tutti i giorni, lontano dai pasti. Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Da lunedì a venerdì alle 17. Solo su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi. Una promessa di calore per un amore di casa. Convocati. Il nostro obiettivo è di ruotare in alto in questo momento, visto che abbiamo perso due punti oggi, abbiamo perso ancora un po' strada. Per fortuna siamo solo nel girone d'andata, c'è la Champions anche che ci mangia un po' di energia, ma i ragazzi hanno dimostrato questa sera di essere tutti concentrati al 200% sul campionato. Io posso dire una cosa, sta facendo bene tutti, al di là di tutte le polemiche che vengono fuori ogni volta, che non gioca uno, non gioca l'altro, così tutti quando giocano fanno quello che devono fare. Per questo motivo stasera siamo primi in classifica, lo siamo stati per diverso tempo. A noi di essere primi, secondi, terzi ci deve interessare relativamente, perché gli obiettivi del Napoli sono stati creati dalla stampa e non dalla società, e quindi questo ci dovrebbe far stare più sereni. Intanto ci ha raggiunto Pierluigi Pardo, ciao Pier. Come ho visto il tuo tweet. Quindi oggi abbiamo la Cassano Dio. Cam, nel senso Cassano che Cam. Abbiamo Cassano titolare. No, io ho due contestazioni, la prima è contro le scelte musicali di Capuano. Ha segnato Sassuolo 1-0. Allora, ha segnato Sassuolo Acerbi, con Acerbi. Sassuolo che 30 secondi fa aveva preso palo con un colpo di testa di Berardi. Noi comunque abbiamo la Cassano Cam per seguire la prima da titolare di Cassano. Comunque Giovanni, la con prima Montella. Contestazione è contro le tue scelte musicali, perché viva la ruota, non si può sentire. Decido io. La seconda è che non riesco a fare la chiocciolina sulla tastiera. È una giornata splendida. È un'ora che chiedo come si fa la chiocciolina sulla tastiera e mi ha detto contro il chiocciolo non mi viene. Allora, 349-238-6666 per rispondermi. WhatsApp o SMS, ci scrivete come si fa la chiocciola, così entro le 19 veniamo di venire a capo. Oppure 800-24-0024. Che è la chiocciola. Sì. Come? Che è anche una contrata di Siena, certo. Come hanno fatto l'800-24-0024 Anna Maria da Roma e Andreas da Trento, che adesso andiamo a sentire. Oggi, al di là della questione arbitrale di cui abbiamo parlato e continuiamo a parlare, però il tema di giornata che fa impazzire è Sarri, che dice: siete voi giornalisti che dite che il Napoli deve vincere lo scudetto in questa giostra in cui nessuno si prende la responsabilità di dirsi in corsa. Pardo lo dice da due mesi. Sì, io lo dico da due mesi. Quindi ha ragione Sarri perfettamente. Ma se parlare bene del Napoli e del Napoli meraviglioso degli ultimi 80 giorni è sbagliato e viene vissuto come una cosa negativa nei confronti del Napoli, vabbè, non ne parleremo più, però io rimango delle mie idee. Cioè, io ho visto per 80 giorni una squadra eccezionale, senza i alla Piccinini, veramente una squadra fortissima. Poi devo dire, negli ultimi 20 minuti contro l'Inter ho assistito a qualcosa di strano, di cui abbiamo parlato per tutta la settimana scorsa. Ha influito sulla sconfitta di oggi? Però io penso, proprio più per l'idea che fosse un sintomo quello, no? Nel senso che quello è un sintomo che noi non avevamo capito, perché poteva essere un aspetto di carattere psicologico, di carattere fisico, e oggi mi sembra di poter dire che è arrivata una conferma da questo punto di vista, che poteva essere una cosa di carattere fisico, perché ho visto una squadra abbastanza svuotata, al di là di un Higuain che rimane incredibile, che anche oggi è riuscito a fare due gol pazzeschi. Però ecco, insomma, è chiaro che Sarri legittimamente si nasconde, fa benissimo, ci mancherebbe altro, ma non pensare che... Non sono così d'accordo. Però, cioè, ecco, è come Di Francesco che dice che l'obiettivo del Sassuolo sono i 40 punti, sì, cioè, sono quelle cose che si dicono, no? Appunto. Si dicono così. Maurizio dalla provincia di Napoli, primo che ci ha raggiunto. Maurizio. Sì, buonasera ragazzi. Buonasera. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Complimenti sportivamente al Bologna che ha vinto questa partita. Io una cosa, una precisazione la farei sull'arbitro, ma non per altro, non per alimentare polemiche, no, per l'amor di Dio, perché degli errori arbitrali nella partita ci possono stare, tipo difficile fuori gioco e magari però, anche però, al secondo punto. Andiamo al però. Sì, il però sta nell'azione interrotta da Mazzoleni nel contropiede del Napoli, dove non ha applicato la regola del vantaggio. Il problema è questo qua. Allora mi domando e dico, perché come i giocatori e magari anche l'allenatore ci mettono la faccia e gli arbitri per quale motivo non possono giustificare magari o andare in televisione nelle radio? È un vecchio, no, hai ragione, è un vecchio. Sì, io infatti li vorrei vedere parlare in conferenza stampa, ma da sempre. Perché veramente, cioè, noi tifosi ci mettiamo l'anima. Io sto tornando da Bologna e economicamente la cosa è pesata, cioè, sì, però questo, Maurizio, però adesso onestamente noi lo diciamo da un'ora, Napoli meraviglioso oggi non ha perso per l'errore arbitrale, anche se pesa, e poi la questione arbitrale la apre Sarri quando dice quella frase lì a Premium, è inutile, sì, che poi per 7 minuti dica che non hanno perso per l'arbitro, se poi dice però smettetela di dire che no, se sono i migliori, è evidente che apre, così come quando, certo, fa la battuta sulle maglie a strisce, così come quando altre volte se l'è presa con altre cose, però insomma questa cosa che non lo so, che poi debbano spiegarsi. Qualche volta l'hanno fatto in Germania, ma non è solo in Italia che non succede. No, no, ma che voilà, Sarri è un fenomeno, nel senso che rapidamente ha dimostrato di essere pronto per il Napoli. E anche dal punto di vista, diciamo, delle consuetudini che hanno gli allenatori delle grandi squadre, mi sembra che si stia adattando bene. Ma lo dico con rispetto, credo che sia una cosa normalissima. Fa i suoi mind games, come dice Genta, cioè prova a indirizzare l'opinione pubblica, a fare anche comunicazione, fa benissimo, cioè, lo fanno tutti, quindi perché non dovrebbe farlo lui? Da questo punto di vista non ci sono discussioni. Intanto è arrivato su WhatsApp, sì, il suggerimento Alt-GR più chiocciola per fare la chiocciola 800-24-0024 finita ignoranza tecnologica, 800-24-0024 traffico, torniamo subito. Poi noi siamo abbonati all'espulsione, quindi è chiaro che gli ultimi 4-5 minuti poi può accadere di tutto. Tutti convocati. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su Audi.it. Vi presenta Tutti convocati. Possiamo mettere tra le note negative un'altra partita finita in 10. No, non voglio parlare, perché non voglio poi che dei soloni iniziano a scrivere delle stupidaggini, soloni che magari ne ha combinati cotti e crudi negli altri anni. Ma io ti chiedo solamente, Roberto, se sei d'accordo su questo tipo di valutazione. Ovviamente, no, Graziano, non voglio dire niente. Qua. No, siccome si poteva criticare, e abbiamo criticato ampiamente quello che è successo a Napoli. Tanto Cassano giù, ma non è calcio di rigore. Voto dei primi 15 minuti di Cassano, subito. Come fa a saperlo? L'abbiamo visto tutto. No, la sto vedendo. E quindi mi sembra che sia obiettivamente in maniera distaccata 5.5. Ma no, i soliti soloni, guarda, i soliti soloni. Anna Maria, eccoci, 800-24-0024. Fammi dire una cosa, Pardo. C'è il piccolo Merco oggi. Che era questo, prima Giordano, a proposito di Mancini, di Sarri eccetera, prima Giordano ha detto una cosa molto saggia, e cioè: perché tu sei lì in testa alla classifica e devi nasconderti? Dimmi, no, ma infatti, serenamente, lottiamo proprio, non è invenzione dei giornalisti, è un tentativo ma dirlo, poi lo vinco o non lo vinco, però forte, siamo in corsa, certo, cioè non è una parolaccia dirlo, assolutamente. Anna Maria. Sì, buonasera. Eccoci, buonasera. Ma scusate, ma in parte, per fortuna, mi ha anticipato l'ascoltatore Stefano da Bologna, che è intervenuto poco fa, perché io volevo dire un po' la stessa cosa. Insomma, questo risultato che c'è stato a Bologna è stato importante non solo perché una squadra ha vinto e una ha perso, ma perché ha scompigliato completamente gli equilibri in cima alla classifica. Allora, io mi ero un po' seccata perché vi ascoltavo da circa un'ora e non ho sentito E sembra che il Napoli oggi sia stata una squadra sciagurata che ha deciso di perdere da sola. Guardate che c'è stato il Bologna che l'ha battuto, sì, il Napoli. Ecco, io non avevo sentito vinceva 3-0. Neanche nominare, ragazzi. Però, poi dopodiché però, la linea è Maria, vostra e fate quello che volete. No, ma per carità, accettiamo assolutamente la critica, però Anna Maria, siccome stiamo ragionando per titoli, è evidente che il titolo è la caduta della capolista. Poi hai ascoltato male, perché alle 17.05 nel nostro pantheon degli allenatori di rivelazione di questa stagione c'è chi voleva mettere Mancini, noi abbiamo nominato Donadoni. Che sta facendo un lavoro straordinario. Che facile, Anna Maria, 17.05. Fa piacere, grazie, buon lavoro. Ciao Anna Maria, grazie. Salutiamo Francesco Guidolin. Guidolin, buonasera. Ciao mister. Buonasera. Possiamo infilare. Come va mister? Come va? Molto bene, grazie. Molto bene. Voi state bene? Sì, non c'è male. Vi seguo spessissimo. Bene, spesso ci Pardo ti aspetta tiki taka. Quando vuoi. Ma non va bene. Quando non aderisce all'invito. Ho provato la settimana scorsa a salire sul Monte Pellegrino in macchina, non in bici. No, no, giuro. Ma è bloccata la strada, mi hanno detto devo fare il giro all'altra parte, poi a un certo punto ho detto qua è meglio che insomma arrivo allo stadio prima che faccio tardi per essere salito sul Monte Pellegrino, però insomma. Ma il Monte Pellegrino è una passeggiata per un ciclista, dai. Ma quindi... no, figurati per un'automobilista. Passeggiata. Per un automobilista. Sì. È duro da morire. Ma no. Ma Guidolin è un grande. Ma che ciclista sei? Cioè, sono un appassionato. No, ma sei uno scalatore. Ricordo gli anni di Palermo e ovviamente avevo con me la mia bici, una delle mie bici, e spesso salivo sul Monte Pellegrino quando avevo un attimo di tempo. È bello, poi il clima laggiù è sempre favorevole, ma è una passeggiata per uno che è un po' allenato, dai. È così. Ma dico, sei uno scalatore? Ma per uno che è un po' allenato, mi piace andare in salita, sì. Trovo soddisfazione andando in salita. C'è anche una metafora? Sì, no. anche, sì, un pochino anche. Senti, ma se ti chiamasse anche Zamparini fra mezz'ora? Sì. Magari lo sta facendo, poi lasciamo libero. Lo saluterei volentieri. Prego, Pardo, non fare così. Scusate, però è un dato di fatto, insomma. Sì, no, è dato di fatto, l'abbiamo detto, Zamparini questa sera avrà un vertice con, credo, con se stesso, perché poi non so con chi decide Zamparini di solito. Vertice con se stesso. Però effettivamente i numeri di Ballardini sono sconfortanti, un punto in tre partite, l'eliminazione in Coppa Italia con l'Alessandria, insomma, probabilmente questa è una storia sbagliata dall'inizio, magari domani potremmo essere qui a parlare del ritorno di Iachini. Rigoni fuori rosa. Sì, con tutto quello che è successo. No, invece stiamo ragionando su questa moda degli allenatori di nascondersi sempre e comunque. Oggi Sarri ha detto: siete voi che dite che Napoli può vincere lo scudetto. Io non lo so, può anche essere un po' la spia di un limite psicologico, Guidolin. Ma no, io non credo questo. Io credo che, parlando di Napoli, ho avuto un collegamento con una trasmissione televisiva di Napoli proprio alla vigilia di questo weekend. E una cosa che non ho avuto il tempo di dire è che secondo me il Napoli può sicuramente lottare per il vertice e anche per lo scudetto, per il vertice senz'altro, anche per lo scudetto, in un campionato equilibrato come questo, a patto che si cerchi di far fronte agli eccessi che ci possono essere in una piazza come Napoli, sia in senso positivo che in senso negativo. Quindi io credo che Sarri abbia anche questo compito, cioè quello di cercare di tenere l'ambiente, come si può dire, sulla corda. Sulla corda, ma anche nel modo più realistico più possibile, nel senso che non è detto che il Napoli deve vincere tutte le partite, può anche incappare, certo, in qualche giornata no. Sono impegnati su tanti fronti, quindi avere sempre la concentrazione a mille non è facile, e nel campionato italiano essere concentrati e determinati è essenziale, perché si rischia di perdere con tutti se non si ha questo tipo di atteggiamento in gara. E quindi non credo che sia un modo di nascondersi, credo che sia un modo di guardare in faccia la realtà, e cioè che il Napoli sicuramente, anche per l'allenatore stesso del Napoli, è una è una squadra importantissima nel nostro campionato, una bella squadra, sta giocando molto bene e può arrivare fino in fondo, però si può passare anche attraverso delle giornate meno positive come quella di oggi. Sì, magari ha ragione quando dice che una sconfitta come quella di oggi può aiutare a crescere. Può aiutare. Aspetta, mi interessa chiedere, perché poi il tema a questo punto è riaperto ufficialmente, se la Juve è ancora la squadra più forte di tutti. Beh, la Juve è rientrata e rientrerà ulteriormente, nel senso che, usando una metafora ciclistica, ha raggiunto quasi il gruppetto che sta davanti, quasi, e non può sbagliare perché non c'è solo una squadra davanti, ma ce ne sono alcune. Però è una squadra che è abituata a vincere far paura, in sequenza. Sì, è una squadra abituata a vincere 7, 8, 9, 10 partite di fila, quindi può succedere alla Juve, lo auguro ad Allegri, e quindi può avere la forza sicuramente, ma anche la mentalità per completare il recupero e quindi giocarsi le carte per lo scudetto. E mister, quando da Radio Corsa ti dicono la Juventus sta rientrando, insomma, davanti cominci a c'è una progressione, nel senso che la prima di queste cinque partite la Juve l'ha vinta all'ultimo minuto col Torino, dopo un secondo tempo, diciamo la verità, abbastanza brutto. Tu hai commentato, no? Sì, l'ho commentata per il canale della Serie A, quindi, però comunque l'ho vista molto bene, e lì insomma era una partita che la Juve sicuramente non aveva proprio gestito al massimo, però è stato un gol dovuto all'intuizione dell'ingresso di Alexandro, il gol di Cuadrado alla fine, che secondo me ha dato grande speranza, grande fiducia, grande autostima, anche perché era il derby. Secondo me in quell'occasione ha fatto una mossa eccezionale, Allegri. Ha fatto una mossa perché in quel momento la Juve poteva anche rischiare di perdere. Lui con quella mossa ha voluto dare equilibrio alla squadra. E infatti chi fa il cross, mister? Alexandro ha fatto cross e poi la conclusione dall'altra parte. Beh, lui è bravo a leggere le partite, eh? Questa è stata sicuramente una mossa molto intelligente, secondo me, e azzeccata. Dopo ci vuole anche un pizzico di fortuna. Ti piace molto Allegri, mister? Mi piacciono tutti i miei colleghi, ma sicuramente Massimiliano sta facendo un lavoro eccezionale, quindi è un po' sottovalutato? No, non credo, perché uno che in rapida successione arriva ad allenare Milan e Juventus e non può... No, direi di no. Lavora in un ambiente e in ambienti nei quali bisognerebbe sempre vincere, arrivare primi, vincere la Champions League, e questo non è sempre facile, certo. Mi pare di poter dire. Mister, mi riferisco a Sarri, torno a Sarri, ma anche a Garcia. Parlare di arbitri è un segno di debolezza? Beh, io lo dico, non ho letto molto dichiarazioni, me lo dite voi, e io non posso commentare perché non ho letto le dichiarazioni. Oggi Sarri dice noi siamo stati penalizzati, non lo so, si poteva sbagliare, non mi interessa giudicare, però poi la butta lì, basta con il luogo comune che gli arbitri italiani siano i migliori al mondo, insomma vuol dire sottolineare col pennarello rosso poi la questione. Io credo che i nostri arbitri siano veramente tra i più bravi, non saranno i più bravi del mondo, ma sono fra i più bravi nel panorama. E vabbè, qualche volta può capitare di non essere d'accordo sul giudizio arbitrale e per come si sviluppa una gara o per qualche episodio che ti può andare contro. Alla lunga io credo che la squadra più forte vince non perché viene aiutata, ma perché è più forte, e il Napoli secondo me ha le qualità, così come anche la Roma ha le qualità per poter dimostrare quest'anno di poter essere la più forte, sia il Napoli e anche la Roma. Sono d'accordo. Grazie mister. Ciao, grazie ministro, a voi. Grazie. Ciao. Grazie Francesco Guidolin. Occhio al telefono le prossime ore. Sì, ma non solo per Palermo, c'è anche quell'altra vicenda di Lottito Pioli. Sei tremendo. Beh, ma ragazzi, per Guidolin è bravissimo. Prima è bravissimo. Cioè, è uno di quegli allenatori che dove a percentuale, no, di stagioni. Ha fallito rarissimamente, no? Stiamo parlando proprio di quindi è paradossale. Sinceramente, adesso non voglio parlare male di altri, ma ci sono degli allenatori in questo momento che allenano che hanno un decimo della performance di Guidolin. Sai cosa diceva prima Bruno Giordano? Diceva: Lotito si deve tenere Pioli, soprattutto se i nomi che girano sono quelli di allenatori che non hanno nessuna esperienza. Però ad esempio, se avessi in testa di chiamare Guidolin, ci sono degli allenatori che sono fuori, poi dipende anche che dovrebbero avere la panchina. Devi fare, no? Cioè, ci può stare anche Guidolin, non so se è ancora al telefono, magari ce lo può confermare oppure se non me lo credo, no. Lui ha più volte detto che insomma la chiamata di una grande è mancata forse anche un pochino per mentalità, perché lui in certi momenti ha fatto capire di trovarsi meglio probabilmente in un certo tipo di ambiente, però per un ambiente, diciamo, di una squadra di livello medio, Guidolin secondo me è una garanzia, ad oggi è una garanzia, e mi meraviglio del fatto che non sia stato chiamato. Aspetta che prima di fermarci c'è il raddoppio del Sassuolo, 27esimo minuto, Sassuolo 2 Sampdoria 0. Poi apriremo anche Flocker, un tema, poi apriremo anche un tema. Andreas da Trento che ci sta aspettando da tanti minuti. Andreas, buonasera a tutti e complimenti per la trasmissione. Prego. Allora niente, no, io sulla questione dell'Inter sono interista, quindi sono poco obiettivo, lo premetto. Volevo capire perché da un punto di vista mediatico ancora all'Inter non ci danno delle chance, mi sembra, no? C'è questa situazione per cui sembra che da un momento all'altro la squadra debba ritrovarsi al quarto o quinto posto. A quali media quindi, si riferisce? Ma in generale dico, no, ma non lo dico con un tono polemico, è solo per capire, perché mi dà questa impressione, ecco, si parla, e il Mancio fra l'altro è un allenatore che non si nasconde, nel senso che ha detto semplicemente che altre squadre sono più attrezzate. Beh, ed è vero sulla carta. Ma io comunque sono d'accordo, anzi faccio mea culpa, nel senso che... In che senso? No, nel senso che sicuramente nelle prime giornate di campionato, ma l'ho detto, quindi già l'ho fatto mea culpa, no? Vabbè. Nelle prime giornate di campionato l'Inter faceva fatica a capirla, nel senso che ha vinto veramente tante partite senza entusiasmare e con tante parate di Andanovic, e quindi sì, migliore in campo tante volte ma fa parte del gioco Andanovic, così come un'altra cosa che ho detto spesso è che l'Inter praticamente non è mai andata in svantaggio, e questo secondo me le ha dato dei vantaggi dal punto di vista tattico, però è anche vero che se non è andata in svantaggio è merito suo. Quindi ieri io l'ho commentata e ho la sensazione di una squadra che può arrivare fino in fondo, comincio bene, a avere questa sensazione molto forte. E comunque usciamo da una settimana mediaticamente in cui si è parlato tantissimo dei 20 minuti finali del San Paolo, quindi mi sembra che sia forse la settimana meno adatta per dire che i media ce l'hanno con l'Inter, ce l'hanno con Mancini. Generalizziamo, facciamo nomi e cognomi. Partiamo dalla buona fede, ragazzi, uno commenta quello che vede. Che succede adesso? Che c'è? Succede che dobbiamo fermarci. 800 24 00 24, però torniamo subito. Subito, siamo qua. Noi dobbiamo fare un tot di punti. I tot di punti, se li facciamo riusciamo a entrare nei primi, altrimenti rimaniamo fuori, quindi non importa se davanti corrono o non corrono, noi bisogna fare quel tot di punti, quindi l'ho detto ieri, una corsa a cronometro, siamo soli contro, no contro il tempo ma contro punti. Tutti convocati. Vuoi partecipare a una serata esclusiva in compagnia dei maestri del doppiaggio? Fino al 14 dicembre lascia il tuo provino alla voice box di Voice Anatomy al numero 828 1212. Se la tua voce sarà all'altezza dei più grandi, potrai essere tra i tre fortunati a partecipare come pubblico al Gran Premio Internazionale del Doppiaggio in programma a Roma giovedì 17 dicembre. E quindi, voce! Info su radio24.it. Convocati. Se guardiamo che quando è arrivato Mancini ha comprato a gennaio 6-7 giocatori, poi ha cambiato 9 undicesimi di questa squadra qua, ok? E poi ha avuto anche 6 mesi di tempo per poter lavorare. No, Milan ha speso di più, mi sembra, però che io lavoro da più mesi, questo è vero. Questo duello ieri dialettico tra Mihajlovic e Mancini, Mancini che ha 10 punti più di Mihajlovic, ma se Mihajlovic vince questa sera in trasferta contro il Carpi potrebbe anche rientrare in tutta quella corsa scudetto. Noi l'avevamo chiesto il nostro sondaggione su Twitter. La classifica dice questo, poi. Sai cosa ti dico? Il 13% dice che Milan potrebbe rientrare nella corsa scudetto. Però intanto Sassuolo avanti 2-0 Marassi contro la Samp. Però se guardi la classifica e guardi il calendario. Perdonatemi, un momento di radio verità. Io non trovo la chiocciola sulla tastiera, ma cosa sta facendo Pardo con il sto facendo una cosa al signor Mercu. Aspetta. È lì che manovra. Sì, è lì che manovra. Tablet. Aspetta, che salutiamo Demetrio Albertini. Ciao Demetrio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Come va? Chiediglielo tu a Pardo cosa sta facendo col tablet, perché a me non risponde. No, sto vedendo cosa stai facendo col tablet? Sono multitasking. Demetrio, guarda solo Twitter, quindi twittateglielo. Ma adesso twitto un po' meno. No, volevo capire, ma il Milan può rientrare in corsa scudetto guardando il calendario, oppure un'esagerazione, una suggestione giornalistica? Una boiata, diciamo. Ecco, diciamo che si può dire tutto come situazione. A oggi non ha trovato la continuità per rientrare nel pacchetto delle squadre che possono ambire allo scudetto. Non lo so se la troverà da adesso in avanti, quindi anche i tre punti può avvicinarsi alla testa di classe, alla classifica. Però da qui a dire che rientra è dura sinceramente, obiettivamente dura. Sì, però mi aiutate a capire. Allora, il Milan ha 23 punti, no? Ha Carpi fuori casa, Verona in casa, Frosinone fuori casa, Bologna in casa e poi la trasferta in casa della Roma. Allora, quanti punti deve fare Mihajlovic, anche per mettersi sereno, magari per smetterla di dire che l'ambiente ce l'ha con lui, perché questa settimana qualcuno ha scritto i famosi 35 in un girone di Seedorf. Demetrio, quanti ne deve fare? Perché volendo i 35 basterebbe fare le prime 4 vittorie, che sulla carta non sono impossibili. C'è una confusione intorno al Milan in questi anni e ancora adesso continua. Io credo sinceramente che il Milan, oggi l'ho detto più volte, sta gettando le basi per poter pensare in futuro di essere all'altezza ancora per vincere lo scudetto. Ci vuole tempo, bisogna credere in quello che si fa. Potrebbero arrivare tutte le vittorie, perché sulla carta sembra tutta facile, o comunque incontra squadre che possono essere meno blasonate del Milan, però bisogna vincerle in campo. Quindi io credo che non è così semplice poter, nel campionato italiano, quello che stiamo vedendo adesso, un campionato ritornato ancora difficile, di buon livello, poter vincere così facilmente qualsiasi partita. No, questo senz'altro, ma tu questa evoluzione, questo progetto lo vedi? Devo dire la verità che nel caso dell'Inter, per esempio, non era facile vederlo. Cioè, l'Inter di Mancini, l'abbiamo detto l'anno scorso, è andata peggio addirittura dal punto di vista numerico dell'Inter di Mazzarri, però evidentemente lui in testa un'idea ce l'aveva e adesso si vede. Nel Milan ci sono dei segnali che, al di là dell'andamento della stagione, che non è un dettaglio, la strada sia quella giusta? Guarda, per quanto riguarda il gioco è un po' più difficile, nel senso che oggi il Milan, come ho detto precedentemente, non è stato continuo per poter vincere lo scudetto. Lo scudetto lo vince chi gestisce molto bene i momenti negativi della stagione, che normalmente ci sono per tutte le squadre, e il Milan oggi non ha ancora dato un momento di tranquillità per poter essere continua. Però ha speso diversi soldi, anche tanti, sì, quest'anno ha preso dei giocatori non a parametro zero come negli ultimi anni. Per la prima volta ha speso dei soldi con un progetto, anche con giocatori magari più giovani che quindi dovranno inserirsi e magari potranno dare il suo futuro. Hanno preso dei giocatori davanti che possono anche cambiare la partita, e non sono riusciti, perché sapevamo, seguendo il mercato, a prendere il centrocampo, magari un giocatore che gli poteva servire, e potranno rifarlo a gennaio, potranno farlo in futuro. Io mi auguro che questo progetto, io non lo conosco, sono fuori dal Milan, però che questo progetto esista, che questa programmazione esista per poter arrivare nel giro di un paio d'anni a essere, o comunque già dall'anno prossimo, a essere competitivi per lo scudetto. Intanto Demetrio, ma che sta a fare? Ce lo facciamo raccontare ma Piero, come sta andando, presidente? Bene, no? Bene. Ma noi gli famo 4 gol. Anche perché servono, perché ne ha fatti 3 il Sassuolo. Lei chi è? No, il Sassuolo 3-0. No, dico lei. Chi è? Che radio siete? Radio 24, presidente. Chi sta a parlare al telefono? È Demetrio Albertini. Comunque ha segnato Pellegrini 3-0. Quello per il con la cravattella, quanto no, è bello. Attenzione, perché stiamo vedendo. Mo' gli famo 4 gol. Forza Samba. Che Ferrero si è allontanato. Se mi scende negli spogliatoi. Fare cosa? Non lo so, però hai visto questa immagine? Fra l'altro c'è uno storico Samp Sassuolo 3-4 di, sì, se non sbaglio, di 2 stagioni fa. In questo momento siamo 3-0 per il Sassuolo dopo 39 minuti. Il Sassuolo che sta giocando sembra il Barcellona, squadra nella quale a proposito di contento mio fratello, mio figlio che è tifosissimo del Sassuolo. Sì, come mai? Perché? Perché quando era in Serie B gli ho regalato l'album delle figurine, gli è piaciuto il Sassuolo e quell'anno di Cassano vinse sempre. Non e puoi, quindi ha gioito. Demetrio, quindi, non puoi capire che palla gol. Cassano ha dato segni di vita. Non mi mettere in mezzo. Ha dato una gran palla. Stiamo vedendo, ha dato una gran palla. Non è la prima di questa gara. È tutto finito. Ma è tutto finito. Scusate, intanto mettiamo ordine. Tanto persona seria, Demetrio Albertini, un'altra A proposito di progetti, sfugge il progetto di Zamparini, Ballardini un punto in tre partite, sfugge il progetto forse del Verona, che del Neri è iniziato benissimo, e il caro Montella o fa il ribaltone oppure sono zero punti in tre partite. Mi fate però sentire la frase della settimana, così ne parliamo con Demetrio Albertini, che è quella di Maldini, perché abbiamo parlato adesso del mercato, i 90 milioni spesi. Maldini su Galliani: se vuoi tornare a essere grande ci vuole un percorso, ci vogliono investimenti, ci vogliono delle idee, ci vuole gente che sappia di calcio, e in questo momento a Milan quello manca, perché io considero Galliani un grandissimo dirigente, ma probabilmente dove lui è un po' carente è proprio nella zona calcistica, quindi nel decidere sui giocatori, nel valutare i giocatori, e lì dovrebbe essere affiancato. Allora, potremmo aprire un sondaggione: o Maldini sa che al Milan sta cambiando qualcosa, o è un pazzo suicida, perché dire a Galliani che capisce poco di calcio significa richiudersi la porta davanti. Voi non dovete parlare male di mio figlio. Perché Paolo quando bagaglino Demetri, hai capito come in che situazione siamo, eh? Confronto di Chitaga sembra l'Accademia della Crusca, sembra... Scusa, rispondo perché a voi, proprio perché mi fa piacere per questo clima. Però, ma che ne pensi? Si è richiuso la porta? Che secondo me era già chiusa. Sì, però Che Galliani ha bisogno della badante, mi sembra tanta roba. Ma scusa, ma da quando mai è stata aperta per qualcuno? Appunto, tra l'altro. Beccate questa. Ha ragione Paolo. Demetrio, ha ragione Paolo. Serve, serve aria fresca. No, io non è tanto aria fresca. Io continuo a dire che è cambiato molto il modo di gestire le società. Io adesso, avendo un percorso di ormai 8 anni anche in federazione, e guardando e conoscendo quello che succede anche all'estero e anche in qualche società italiane, oggi ci si vogliono delle specificità, e ci sono delle situazioni che le gestioni di società sono cambiate. Poi dopo ognuno fa la propria strategia, il Milan continua a perseguire questa strategia, e c'è un presidente, non è un'elezione o meno, e quindi le valutazioni le fa il presidente Silvio Berlusconi con qualsiasi persona che voglia essere affiancato per gestire la società. E in questo momento continua a seguire il discorso o comunque la linea Galliani. Ma nel merito tu sei d'accordo? Io per esempio lo dico, io sono d'accordo, cioè io penso che al di là, non so se fosse una forma di cortesia quella di Maldini di dire quella cosa sulla capacità manageriale di Galliani, per me Galliani è un grande manager, dal punto di vista della gestione non ho dubbi. È evidente che il Milan ha un grande manager sulla parte, secondo me, amministrativa, magari non ha un manager altrettanto bravo sulla parte scouting. Cioè tu pensa Galliani e Sabatini insieme, magari non sarebbe possibile, però è quello il discorso secondo te? Secondo me sì, quello che si riferiva a Paolo, sì, assolutamente, come ho detto, ci vogliono delle specificità, secondo me, per oggi, per le squadre di calcio. Succede così a livello internazionale, vedi Barcellona, vedi Real Madrid, vedi altre realtà, vedi Inghilterra, dove danno all'allenatore, certo, per quanto riguarda la parte sportiva, la libertà di scegliere. Qui non è così, nel senso, come la racconta Paolo. Oggi il calcio è cambiato e ci vuole assolutamente essere, secondo me, ai passi con le specificità, quello del grande del presidente, del grande manager, e poi la parte sportiva, la parte dei ricavi, la parte parte dei media, che oggi non è più quella di una volta, la gestione di una volta, perché oggi la situazione media in una società di calcio è importante, hai dei ricavi, hai una gestione completamente diversa da quella che si poteva fare quando giocavamo noi. E quindi secondo me bisogna anche pensare a cambiare, o comunque cambiare, non sto parlando del Milan in generale, cambiare mentalità per quanto riguarda le società sportive italiane. Vabbè, intanto se avete sentito dei rumori, Cassano ha dato un altro passaggio. No, ma eh? No, cioè... a me non me ne frega niente, però voglio dirti... No, non me ne frega niente. No, no, siccome ho detto 5 e mezzo, credo, mi sembra stia giocando. Sta giocando. Ho visto anche un paio di corse, una cosa abbastanza... Un paio di corse. Un paio di scatti. No, detto questo, salutando Demetrio Albertini, diciamo anche che non è un mistero che Galliani e Maldini non si fiutino sì, ormai da anni. Ma credo Galliani e tanti altri, perché insomma... ciao Demetrio! Ciao, buonasera a tutti. Perdona, alla prossima, traffico, torniamo subito. Non sono come si dice, giornalisti, ma giornalai. Tutti convocati. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Tutti convocati. E mo l'aeroplanino decolla. Se avete qualche suggerimento, 80024 oppure 0024. WhatsApp 34. E mo che ho detto? WhatsApp. Praticamente Ferrero sta chiedendo alla gente da casa di chiamare per cercare di 3, mettere 4, un po' di ordine nella Sampdoria. Lei chi è? Capuano. Che radio siete? Radio 24. WhatsApp. C'è un amico, Michele Dalai, che non so, che tweet o comunque scrive su Facebook. Buonasera, sono il sorriso di Walter Zecchi. Oggi sono in tanti. Ma che sta di? Ma che sta a fare? Decolliamo, gli famo 4 gol. Ma voi ve li vedete a casa a vedere le partite oggi? Iachini, Zenga, Mandorlini. Non so, vogliamo metterci qualcun altro. Arturo da Napoli. Arturo di Napoli. Buonasera. Arturo di Napoli. Attaccante. Arturo. Grande attaccante. Ha giocato anche nel Napoli, tra l'altro. Sì. Prego. Niente, volevo semplicemente lanciare un messaggio a tutti i miei amici e tifosi napoletani di restare compatti, sereni, perché oggi in Italia, secondo me, nessuno esprime, a parte la Fiorentina, un calcio migliore del nostro. Tutto qui. Vero? Non c'è dubbio, sono d'accordissimo. Credo che sia un'affermazione abbastanza scontata, no? Cioè basta guardare le partite in televisione. Io posso dire, l'ho detto venerdì, poi si sono anche degli amici da Napoli, si sono arrabbiati. Quelli che devono stare sereni, siccome sono i napoletani per primi, come settimana scorsa se la son presa perché si sottolineavano i buoni 20 minuti finali dell'Inter e per altri motivi, anche oggi Sarri mi è parso poco sereno in una giornata, per carità, con la sconfitta. Però io credo si costruisca anche così poi una squadra che può arrivare fino in fondo, cioè stando sereni, sapendo quali sono le proprie potenzialità, sapendo anche che ci possono essere dei problemi. C'è chi dice prendetelo in giro, Cassano è forte e basta. Non ha scritto Pardo. Ho trovato il numero, non sono io. Pierluigi da Milano. Con l'altro telefono. Cos'è l'Accademia Tiki Taka in confronto all'Accademia della Crusca? Mi fate sentire quell'altra roba a proposito di quelli che ridono come dei pazzi in questo weekend. A Roma qualcuno si sta mangiando le mani? Ma spero di sì. Questo era gli Aici, eh. Sì. No, ma poi ce n'è un altro che si è fatto due risate oggi. Sono arrivate critiche per quella maglia tolta, no, contro la Roma che ti ha tenuto fuori a Torino, ecco, è una rivincita per te? Ma sì, ma non capisco le critiche, perché comunque non era una mancanza di rispetto, anzi io ho tanti amici nella Roma, quindi assolutamente ho tantissimo rispetto per loro e soprattutto per i tifosi. Questo era destro, mi pare. Destro ha tantissimi amici. Io questo rispetto non l'ho visto. Comunque, lasciamo perdere. Va bene, fammi Vitena. Oggi. Ecco, oggi, gente, è un mio elettore. Questo, io no. Oggi qualcuno ha notato, insomma. Jajic e destro. Poi ieri visto Rudiger fare quello che ha fatto. Qualcuno ha ripensato a Romagnoli che al Milan. Sì. Oggi ho visto anche un grande Skorupski, in porta. Che è in prestito all'Empoli. Portiere del fantacalcio, perché ecco. Io devo dire. Ma che è un sciroppo? No, cosa deve fare Sabatini? Deve fare una riflessione anche sulle scelte Sabatini, di mercato. Secondo me deve fare una squadra un pochino più logica, nel senso, soprattutto dal punto di vista del cioè, abbiamo detto mille volte stamattina, è un grande scopritore di talenti, però i talenti puri non bastano per costruire squadre vincenti. E oggi la Roma ha delle lacune, perché per esempio Yang Ambiwa, che è stato venduto per 3,5 milioni e che non era certamente Beckenbauer o Benatia, poteva essere utile, probabilmente meglio di Rudiger. È stato sopravvalutato il ritorno veloce di Castan, che ovviamente nella vita ha avuto problemi abbastanza seri e ha tutto il diritto di potersi riprendere piano. Se discutiamo, anche ieri Garcia l'ha fatto, del presunto errore dell'arbitro sul rigore, vogliamo discutere dell'errore di Rudiger? Sì, ma infatti di quel mancato controllo, ragazzi, allora, Rudiger, ma sono due errori gravi tutti e due, qui Torosidis a Bologna, guarda che la Roma alla fine, al di là della figuraccia contro il Barcellona, da un punto di vista della classifica, insomma, vincendo con Bologna e Torino era meno uno dall'Inter, sì. Stiamo parlando di due partite che sono cambiate al 90esimo, al 93esimo praticamente, con destro e ieri con due calci di rigore, quindi di che stiamo ieri parlando? Non avrebbe meritato la vittoria comunque. No, non avrebbe meritato la vittoria, a Bologna nemmeno, perché a Bologna nel primo tempo ha rischiato, però ecco, una squadra un pochino più cinica, con qualche giocatore un pochino più di qualità, un po' più solida dal punto di vista difensivo, oggi poteva stare ancora lì, quindi deve riflettere molto Sabatini. E comunque se la Roma ha qualcosa dentro, lo ripeto, domenica sarà straordinario, pomeriggio, serata, Napoli-Roma, poi Juventus-Fiorentina. E noi che facciamo? Scusate, campionato domenica. Dirà tanto. E noi domenica siamo in diretta durante Napoli-Roma? Siamo qui, andiamo in diretta durante Napoli-Roma. Abbiamo finito, allora io ringrazio Claudia Schiattone, autrice di questa puntata, Valeria Bernardi, Roberta Frisani in regia, Andro Mercù che ci ha intrattenuto con le sue mille voci. Tutti i convocati torna domani. Domani chiamiamo Ferrero. Domani dopo il GR del 14. Lo chiamiamo, bisogna ci risponde. Tiri in porta alla fine del primo tempo 9-0 per il Sassuolo. Tiri fuori 3-0 per la Samp. C'è un buon progetto. Buon progetto, ne parliamo domani dopo le 14. Ciao. A te voi tutti.